Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Due gol bellissimi, due gioielli potrebbero aver deciso la lotta per la salvezza e di sicuro l'hanno orientata. Il primo in ordine cronologico è quello di Božinov, poco dalla fine di Lecce-Napoli. Il secondo è a tempo scaduto, ma con 30 secondi di recupero supplementare, comunque a 15 secondi dalla fine, quello di Boselli nella, diciamo pure drammatico per la Sampdoria, derby genovese, perché perdere un derby così già sarebbe crudele di per sé, ma perderlo sapendo che quella sconfitta ha tutta l'aria di essere la mazzata definitiva per la Sampdoria, che era partita nell'agosto scorso con i preliminari di Champions, aveva vissuto una beffa analoga con il Werder Brema ancora in agosto nelle qualificazioni per i gironi di Champions League, l'aveva praticamente ottenuta e poi si è vista beffata a quella maniera. Beh, per com'era l'andamento della partita di ieri sera, a poco dalla fine, anche il gol di Boselli, sia pure un gioiello, ripeto, sa per la Sampdoria certamente di beffa. E credo, poi per carità, la Samp deve giocare domenica col Palermo, e in casa ha tutte le possibilità di vincere, magari ne ha un pochino meno la partita successiva a Roma, in casa della Roma, ma insomma, in ogni caso le suggestioni di stagione possono anche lasciare intendere che quest'anno c'è una, al di là di tutti gli errori commessi e di tutti i demeriti che la Sampdoria ha accumulato anche come società in questa stagione, insomma, la sensazione che ci sia una congiunzione astrale che dalla beffa di agosto è arrivata a quella di ieri sera. Tra l'altro, proprio quella girata di Boselli in area, quella che ha dato questa vittoria trionfale al Genoa, ha ricordato una girata di poche ore prima, con l'altro piede, ma insomma quella di Pazzini a San Siro per il primo gol dell'Inter. E allora alla fine la sensazione è che tutto si tenga. A proposito del gol di Božinov a Lecce, va anche detto quanto sia stato bravo l'arbitro Valeri, perché l'assistente di destra non si era accorto che il pallone calciato dal bulgaro era entrato e poi uscito, e invece è stato l'arbitro a prendersi la responsabilità di concedere quel gol. Adesso tutto passa e viene rubricato insomma come se fosse un accadimento normale, non lo è affatto, perché quel gol è un gol che potrebbe, perché mancano ancora 180 minuti, ma potrebbe aver deciso, o comunque, ripeto, seriamente orientato la salvezza. Il Milan campione, io direi attraverso i numeri di Franco Piantanide, che ha pensato di celebrarlo attraverso qualche curiosità statistica, e vi assicuro che trattandosi del Milan una gran fatica non l'ha fatta, secondo me. Comunque, dopo Viani, Rocco, perché bisogna metterci anche Viani a questo elenco, e invece questo nome non l'avevo visto io negli altri elenchi per l'appunto. Dopo Viani, Rocco, Sacchi, Cappello e Zaccheroni, anche Allegri ha dunque vinto lo scudetto al primo colpo. Poi di tutti loro solo Cappello l'ha abissato e addirittura triplicato negli anni successivi. Esattamente come l'ultimo scudetto il Milan lo ha festeggiato contro la Roma. Il 2 maggio 2004 era stato un 1-0 a San Siro targato a Shevchenko per il titolo numero 17, il 18esimo. È arrivato con una partita, come si diceva un tempo, a reti inviolate. Nono scudetto in carriera per Ibrahimovic, 2 all'Ajax, 2 alla Juve, 3 all'Inter, 1 a Barcellona e adesso 1 al Milan. L'ottavo per Van Bommel. Quanto ai reduci di quello scudetto 2004 sono Gattuso, Ambrosini, Seedorf, Inzaghi, Pirlo, Nesta, Abbiati e fin qui siamo alla vecchia guardia, ma anche Abate, che allora aveva 17 anni. Ancora una curiosità carina, anche questa. Allegri, il 9 maggio 2004, e cioè oggi, vincendo in casa per 2-1, aveva salvato in C2 l'Aglianese con un turno di anticipo, e quella era stata la prima esperienza di Allegri come allenatore, coincidente esattamente con il giorno in cui il Milan aveva vinto il suo 17esimo scudetto. E va bene, adesso qualche voce in attesa che voi vi prenotiate per i vostri interventi. Gli argomenti sono ancora tanti, basterebbe basterebbero i due estremi, no? di Udine, da Handanovic a Di Natale, estremi in tenorina nel senso di formazione, perché le loro prodezze hanno oggettivamente illuminato e reso illuminato e determinato la vittoria dell'Udinese sulla Lazio. Adesso, per quanto possano risultare un po' datate, le sensazioni a mente fredda di Allegri su questo suo primo scudetto. Avrei voluto dormire, però non sono riuscito. No, vabbè, sicuramente svegliarsi con uno scudetto non è cosa di tutti i giorni, quindi è stata una bellissima sensazione. Le sensazioni sono belle, è normale, però ripeto, credo che io sono arrivato al Milan con l'entusiasmo e soprattutto ho cercato di conoscere subito tutte le persone che lavoravano nel Milan e mettermi a disposizione di tutti loro per farmi anche conoscere. Soprattutto ho capito subito che la vecchia guardia, quelli che avevano dato tutti per finiti, avevano voglia di vincere e avevano voglia di rimettersi in gioco. Perfetto, i miei correttori di bozze personali, che sono davvero tanti, mi informano giustamente che sono andato avanti a ripetere Bogino non so quante volte il gol del Lecce l'ha segnato Cevanton. Credo che anche Bogino sia passato per il Lecce, però, e quindi probabilmente è stata questa la genesi di questo equivoco. Il gol, magnifico, Bogino ormai gioca nel Parma e ha segnato un gol molto bello di recente, forse è stato questo che ha prodotto questo equivoco. Non gioca nel Lecce da 6-7 anni, mi informa uno di questi ascoltatori, però nulla toglie, ripeto, mi spiace per l'equivoco e si dà a Cevanton quello che è di Cevanton, che comunque se l'è già preso ieri perché si era preso in un modo davvero strepitoso con un gol da campione, cosa che un tempo sembrava poter diventare. Poi mi pare che anche con qualche avventura che si è tramutata in disavventura all'estero Cevanton si sia un po' smarrito, la carriera che sembrava aspettarlo è stata poi diversa. Ieri ha avuto questo lampo vecchia maniera che davvero ha illuminato la domenica del Lecce e ha in combinata con quella del centravanti del Genoa, del centravanti di riserva del Genoa, ha orientato, ripeto, la lotta per la salvezza. Dicevo di Udinese e Lazio, quello parato da Handanovic è il sesto calcio di rigore di quest'anno, 6 su 8, che è una media sbalorditiva, ma è una media nettamente positiva anche la media gol dell'Udinese, che è arrivata a 63 gol ed è il suo record assoluto in un campionato, il suo record di sempre. Mentre Di Natale non è ancora arrivato ai 29 gol che gli fruttarono lo scorso anno il titolo di capocannoniere, ma ci è vicinissimo perché è a 28 e tutto, a parte che ieri se ne è mangiati due, prima di segnare i due che ha segnato, due se li era letteralmente divorati nel primo tempo in cui l'Udinese ha dominato la Lazio prima di subire poi il ritorno in 10 nel secondo tempo. E in ogni caso già questi 28 gli frutteranno il titolo di capocannoniere già bissato, perché l'unico che ancora poteva insidiarlo, cioè Cavani, staccato di due gol, si è fatto espellere ieri a Lecce, male tra l'altro, e quindi salterà come minimo la partita con l'Inter di domenica, ma io credo che non se la caverà con meno di due giornate, e questo vuol dire che Di Natale, se anche da qui alla fine smarrisse la via della porta, sarebbe ugualmente capocannoniere con il discreto bottino in due stagioni di 57 gol, perlomeno fino a questo momento, con due partite ancora da giocare. Primo intervallo, strade. Dicevo della vittoria del Genoa, di questa vittoria drammatica addirittura, non certamente per il Genoa ma per la Sampdoria, anche perché ottenuta in quella maniera e ottenuta in un derby, oltretutto un derby che era stato preceduto da molte parole, ormai insomma tutte le partite sono precedute da troppe parole, ma in questo caso erano state parole anche inopportune e parole strane, perché insomma partivano da presupposto che tra genovesi ci si potesse aiutare. Ora, questo detto da chi dovrebbe conoscere meglio i genovesi di chiunque altro, cioè dal sindaco di Genova, sinceramente era parso subito di rara attendibilità. Ma è un periodo questo, e qui siamo in par condicio, che mi pare per esempio che a Bologna, no, entrambi i candidati degli schieramenti sappiano poco del Bologna e facciano una gara a chi fa più gaffe in materia. In ogni caso, ieri sera il Genoa ha applicato la parità di trattamento, in fondo, arricchito ovviamente con l'additivo della rabbia e della grinta e della rivalità da derby, ma applicato alla parità di trattamento, perché nelle ultime giornate gli era capitato di battere le rivali della Sampdoria e ieri sera ha battuto anche la Sampdoria. Sentiamo il commento dell'allenatore, di Ballardini. Non è stato un bel derby, eravamo contratti, la Sampdoria altrettanto, quindi non è stata una bella partita. Nel primo tempo si è giocato un po' di più, nel secondo tempo invece c'è stato troppo nervosismo, troppa fretta, troppa paura. Abbiamo fatto partite contro il Brescia, contro il Lecce e oggi abbiamo giocato contro la Sampdoria, squadre che sono coinvolte per non retrocedere nella lotta per la retrocessione. E abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Il Genoa, come ha giocato questa sera, alla morte, poi magari si può anche giocare meglio, ripeto, ha giocato con la stessa intensità, con la stessa voglia di vincere le altre partite, tutto qua. Complimenti alla correttezza del Genoa, scrive Ivano da Cuneo, ma perché Ballardini verrà cacciato? Questa sinceramente è una bella domanda. Ballardini ha fatto più o meno come ha fatto Gasperini prima, no? Io credo che punto più punto meno siamo grosso modo sullo stesso rendimento. Non solo, Ballardini era stato anche gratificato, io mi ricordo, dopo poco tempo dal suo arrivo, dall'aggettivo aziendalista, usato a suo carico, direi, più che a suo merito da un presidente come Preziosi. Evidentemente nemmeno essere aziendalista gli è bastato. Primo ascoltatore di oggi, Stefano, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Una considerazione più che una domanda. I portieri para rigori, due più forti del campionato italiano, sono senza dubbio Giulio Cesar e Handanovic, con due stili completamente differenti. Giulio Cesar è puro istinto e para parecchi rigori in percentuale. Handanovic invece utilizza una tecnica completamente differente, ovvero studia tantissimo i possibili rigoristi delle squadre che andrà ad incontrare. Secondo me si è studiato tantissimo Floccari, Zárate e il brasiliano Hernanes della Lazio. Toccava Zárate, lui ha visto che gli ultimi suoi rigori erano tutti tirati forte, tesi, in centro alla porta, oppure lui faceva sempre questa sorta di cucchiaino, come si suol dire. È stato completamente fermo dopo aver studiato Zárate e gli ha letteralmente parato il rigore. Due stili completamente differenti, sì, risultati, sì, spesso uguali. Sì, due stili uguali, quelli di Micoli e Zárate in questa giornata, no? Perché anche Micoli ha fatto una discreta figura al dischetto con il Bari sabato. Quella di Zárate ieri è peggiore, anche perché costa molto di più alla Lazio, cioè è un errore molto più pesante. Pensi che guardando l'esecuzione di quel rigore e la disinvoltura con cui Handanovic l'ha parato, le due prime riflessioni sono state: la prima è peccato che Handanovic non l'abbia preso col petto, no? Perché è una cosa da stoppare il petto, perché quando un calciatore, lei dice che tirava forte in mezzo i precedenti, beh, quello di ieri non era nemmeno forte, no? Era secondo me un cucchiaio un po' spinto che gli è venuto così. Comunque poteva stoppare a ripeto, che era una discreta risposta a Zárate. E l'altra cosa, ho pensato che tra le task force da istituire da parte di Lotito c'era anche magari qualche ripasso dal dischetto, magari anche qualche ripasso di come si difende sulla corsia di sinistra, ma questi sono vertici che riguardano lui e l'allenatore. Una voce? No, un altro Stefano invece, ma stavolta da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io ho due argomenti rapidissimi, mi ricollego un attimo al discorso dei portieri. Io ho 50 anni, ho giocato a calcio nei giovanili e nei dilettanti, però parliamo di una, se vuoi, una carriera intorno agli anni 70 e metà anni 80. E devo dire che in quegli anni, quando io giocavo, se passavo una palla nell'area piccola del portiere e in quell'area non c'era una mia uscita, prendevo dei calci nel sedere. Adesso io vedo che molto spesso ci sono delle deviazioni in area piccola che poi fanno, scaturiscono o in gol o in quelle che vengono definite in questo momento parate di istinto eccezionali, oppure magari in errori degli attaccanti. Praticamente di portieri che escono, che fanno la propria la palla, ce ne sono veramente pochi. Si possono veramente contare episodi di uscite di portieri su palle alte, tese in area durante gli incontri. Questo soprattutto a livello internazionale mi sembra che ci sia invece una maggiore predisposizione. Naturalmente questo è molto importante come fattore, perché i portieri avendo le mani dal punto di vista fisico ha dei grossi vantaggi nei confronti degli attaccanti, e di questo aspetto non si parla praticamente mai. Insomma, anche in quest'ultima giornata io ho visto delle deviazioni sotto porta dove il portiere sarebbe potuto uscire tranquillamente, ma il portiere se ne sta praticamente quasi dentro la linea della porta aspettando una deviazione. Adesso dentro la linea della porta no, però certamente il portiere, insomma, c'è stata un'epoca in cui c'era effettivamente una concezione un po' più moderna del ruolo di portiere, perlomeno all'interno dell'area piccola, come dice lei, e cioè questa è la mia terra. E qui non dico che non ci deve entrare nessuno, perché ci possono entrare come, però col modo di difendere, e cioè con la linea dei difensori per provare a metterli in fuori gioco se si avventurano troppo avanti, e con me portiere che sto un pochino più fuori, non lo so, è un discorso lungo evidentemente, che andrebbe fatto anche con dei tecnici. Io credo che un minimo possa entrarci anche la paura di questi palloni molto leggeri che volano. Ora non è che nel nostro campionato si usi quella porcheria che si usava ai mondiali in Sudafrica, però è vero che i palloni di oggi sono molto diversi, e che se calciati bene e se calciati con un certo effetto, con un certo taglio, ti possono sorprendere da qualunque punto del campo. Quindi forse potresti che un minimo di titubanza al portiere a stare un pochino più fuori alla porta venga dal fatto che quello finta di crossare e poi in realtà ti può fregare con più facilità di prima, grazie non alla leggerezza, perché il pallone pesa esattamente come un tempo, ma all'elasticità di questa palla che gli consente, che le fa prendere traiettorie diverse. Sentiamo ancora Vincenzo Ferrara, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, volevo un attimino discordare con lei sul fatto dell'allenatore che non deve creare meno danni possibile. Secondo me l'allenatore deve sapere gestire, diciamo il caso di Capello, la Juventus che ha gestito benissimo Del Piero, oppure mi ricordo un fatto favoloso del signor Carletto Mazzone che prese a schiaffi un giocatore che si fece cacciare fuori una partita. Comunque niente, in ogni caso secondo me l'allenatore deve saper fare gestire una squadra. Poi di esempi ce ne sono molteplici. Vabbè, vorrei ancora... Grazie al suo parere. Grazie a lei Vincenzo, vorrei ancora vedere che un allenatore non sapesse gestire una squadra. Allora in questo caso avrebbe semplicemente e definitivamente sbagliato mestiere. I discorsi che si fanno in questo... semmai sono quelli sull'incidenza, sulla vera percentuale di merito o di demerito che un allenatore è, che a parer mio è sempre sopravvalutata, ma questo è un altro discorso. Invece il discorso di prima riguardava, tra le altre cose, questi due gol gioiello, quello del Zena di ieri sera e quello di, non di Božinov, ma di Cevantone nel pomeriggio a Lecce, ma senza dimenticare qualche altra prodezza di ieri, perché ho già citato quella di Pazzini a San Siro, ci aggiungerei sempre a San Siro quella di Girardino che segna in corsa un gol fantastico con un controllo volante di coscia e la chiusura con l'altro piede è semplicemente superbo. Le due punizioni molto belle di Coutinho e di Diamanti, ma con Diamanti torniamo all'amarezza, perché è stata davvero una prodezza inutile, arrivata quando ormai il Brescia era davvero già retrocesso. Il secondo intervallo di oggi è come sempre per aggiornare i mercati. Intanto comincio a segnalarvi che da giovedì a lunedì prossimo saremo, e non è un plurale maiestatis che non avrebbe senso, ma saremo in quanto Radio 24 a Torino per il Salone del Libro, e da Torino dal Salone andranno in onda in diretta molte davvero trasmissioni, tra cui questa, tra cui A Tempo di Sport, sia il giovedì che il lunedì per quello che mi riguarda personalmente. E poi volevo introdurre qualche altro argomento. Per esempio, con quella sancita ieri, causa la sconfitta casalinga col Catania, il Brescia è arrivato alla sua 12ª retrocessione in Serie B. Una curiosità abbastanza amara per queste due società è che sono proprio Bari e Brescia le squadre più retrocesse in Serie B. Sono le due che quest'anno ne aggiungono un'altra e arrivano entrambe a quota 12. La Sampdoria, con 27 punti in meno rispetto alla stagione scorsa, è la squadra che ha peggiorato di più il risultato. Un anno fa aveva 63 punti, era al quarto posto, che poi difese e per l'appunto difese e le valse il posto alle qualificazioni di Champions League. Adesso ha totalizzato la bellezza, anzi la bruttezza direi, di 27 punti di meno. Ho parlato del Brescia, sentiamo un breve e immagino amaro bilancio di Iachini sulla stagione. La squadra ha sempre dimostrato sul campo di meritare più punti di quelli che poi ha veramente conquistato, per occasioni create, per il gioco sviluppato e nei singoli episodi, magari a volte un pizzico sicuramente anche di sfortuna, però magari in certi episodi non abbiamo avuto quella concretezza, quella bravura nell'andare a chiudere e a portare a casa partite sia in un senso che nell'altro, in fase difensiva poi o in fase offensiva, nel saperle andare a definire nel momento in cui la gara stava dando determinati vantaggi a noi, e quindi questo lo paghiamo. Sì, in particolare a Genova, in quella sorta di spareggio con la Sampdoria di una settimana fa, ma non solo, anche in parecchie altre occasioni. Da Como ha chiamato Milo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Ascolti, io volevo ribadire quello che ha dichiarato Fabio Capello qualche giorno fa, che questo è il campionato diciamo più regolare dopo Calciopoli, per un motivo o per l'altro. Lui ha detto più combattuto, non ha detto più regolare. Più combattuto? Sì, ha detto così Capello. Probabilmente io sono tifoso del Milan, allora... poi, diciamo, dare atto al... Quindi questo vuol dire che il tifo rende miopi, ma rende anche un pochino sordi, questo intende dire? No. No. Non lo so, può darsi. dare atto poi al comportamento appunto come del Genoa ieri sera e del Bari, certo, della sportività appunto che hanno, a parte diciamo per quel che riguarda il Bari, i rossi contro Ibra e poi non mi ricordo se Masiello contro la Roma per Rotta, hanno un attimino sembravano che erano stati colpiti da chissà quale pugno. Beh, non giustifico. Ma questo è universale, non riguarda soltanto certi giocatori del Bari o certi altri, anche il grande e anche il grande Barcellona, tra le tante botte che ha preso la Real Madrid in quattro partite qualcuna l'ha teatralizzata, no? Ecco, e quindi quello secondo me non è un parametro. Trovo molto più interessante invece quello che lei diceva a proposito della sportività del Genoa, che ieri sera è diventata feroce, e non solo sportività per ovvie ragioni di rivalità, e quella del Bari e quella anche di qualche altra squadra, adesso queste due in particolare sicuro. La paragonerei anche, non dico all'antisportività, ma certamente non è facile trovare la parola, diciamo facciamo lassismo con cui per esempio Bologna e Cagliari stanno invece giocando questo finale di campionato. Credo che siano due estremi gli atteggiamenti di queste due coppie di squadre e sinceramente il comportamento del Cagliari e del Bologna non fanno benissimo alla regolarità del torneo. Proprio da Bari ha chiamato Maurizio, buongiorno. Sì, salve Garanzini, due argomenti veloci. Il primo è a sottolineare come la società Milan sia stata presente, come si può notare, nei festeggiamenti, nelle dichiarazioni dei calciatori. Al contrario, senza andare troppo lontano fino alle dichiarazioni di Vialli dopo la conquista della Coppa a Roma, di come ha fatto Milito nella ribalta post-Champions a maggio, lo stesso Benitez nelle dichiarazioni post-Coppa del Mondo, che hanno estenuato il loro malessere, mentre i giocatori in scadenza sono stati comunque più pacati, e questo dimostra, penso, la forza della società Milan. Il secondo argomento, mi sembra di aver capito che io abbia visto il gol di Cevantoni ieri contro il Napoli, e senza volerne a De Santis, ma prendo l'episodio come per sottolineare quando si parla della collaborazione dei calciatori con gli arbitri, per il rispetto delle regole, come invece se lei ha notato la variazione di De Santis, penso che qua sia manifesta malafede. No, Maurizio, guarda, sapevo che ci arrivava e la stoppo immediatamente. Nel modo più assoluto no, è una normalissima reazione istintiva di un giocatore, non di un portiere, in questo caso, di un giocatore. Qualsiasi giocatore è convinto sempre di essere dalla parte della ragione. Questo pallone è entrato o non è entrato, ripeto, bravissimo Valeri a coglierlo. De Santis non ha, credo, nessuna possibilità di vedere se la palla è entrata o meno, perché è in volo. Quindi, essendo in quel momento in volo, gli leviamo questa responsabilità di decidere o di valutare, e quando atterra e gli viene dato gol, cioè insomma, l'arbitro decreta che ha subito gol, si ribella e protesta. Lo trovo normalissimo, lo trovo delirante, inammissibile quando viene fatto dai giocatori di campo per decisioni molto, molto, molto meno significative. Cioè, ho tessuto fino adesso l'elogio della sportività del Genoa e della insomma, diciamo pure la lealtà feroce della battaglia di ieri sera in campo, però l'atteggiamento era insostenibile. Io non avrei mai potuto fare l'arbitro, perché se sono Tagliavento, alla prima protesta di Rossi ieri sera la seconda volta che Rossi, per un fallo a metà campo che ha fatto, mi viene incontro con quell'aria, spiego a Rossi da che parte deve accomodarsi, insomma, e magari a mia volta in maniera neanche molto urbana. Max ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, ancora sul Napoli, di cui sono tifoso, e volevo il suo parere sulla situazione che si sta sviluppando adesso. Cioè, secondo me il Napoli avrebbe tutte le ragioni per essere strafelice della stagione che sta conducendo, penso sia una delle migliori, se non la migliore, dai tempi di Maradona, e invece questo Mazzarri che va, resta, non so, non si sa, Cavani che si fa espellere, Mascara che si fa ammonire e quindi non giocherà contro l'Inter, il presidente che non parla con l'allenatore, non trova che stiano rovinando un po' tutto e mettendo persino a rischio il terzo posto, che credo sia importantissimo per i 30-40 milioni di euro Champions? Ringrazio, l'ascolto per radio. Dunque, non so se sono 30-40, penso siano meno, non credo che arriveranno a rischiare il posto Champions. È vero che stanno facendo il possibile e l'impossibile per rovinare troppo, ma per guastare questa stagione, ci aggiunga pesantemente il presidente, perché ieri indubbiamente il Napoli non ha giocato una delle sue migliori partite, ma da lì all'aggettivo indegni usato dal presidente a proposito dei suoi giocatori e dell'atteggiamento della squadra, indegni è uno di quegli aggettivi che, se noi ancora in questo mondo, in questa società, sapessimo pesare le parole, e se non le pesano presidenti di altro, si immagini se deve pesarlo un presidente di società, no? Se vogliamo rispettare le proporzioni, ecco, io penso che l'aggettivo indegni per una squadra che ieri ha perso oggettivamente, ma ha perso due minuti alla fine, ci ha provato in tutte le maniere e al massimo ha giocato male, credo che sia di tutte le spie di malessere che stanno uscendo da casa Napoli nei tempi più recenti, credo che quell'aggettivo usato da De Laurenti sia sinceramente la spia più allarmante. Tocca ad Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, io volevo una piccola, diciamo, opinione, ecco, sono un simpatizzante interista, non estremamente esaltato tifoso, ecco, però secondo me l'Inter è un altro campionato che poteva farlo suo tranquillamente, con tutto il rispetto per il Milan. C'è la matematica in un'opinione: se all'andata l'Inter batte Chievo e Brescia, Lecce, è campione d'Italia. Attualmente i risultati che è conseguito nella giornata di ritorno. Sì, se la matematica. No, ma i se sono sempre due, però. Se la matematica non è un'opinione, e se anche la famosa zietta aveva le ruote, no? O no? No, io sto dicendo che è un campionato che secondo me l'Inter ha buttato un po', perché bastava battere queste squadre provinciali che l'Inter ha sempre battuto in campionati non sospetti, gli ultimi. I campionati non sospetti, non si faccia sentire dagli juventini sui campionati non sospetti. Quindi, no, senta, io credo che se facciamo una disamina tecnica del valore delle due rose, è indubbio che l'Inter abbia come minimo agevolato questa vittoria del Milan, nel senso che avrebbe certamente potuto fare meglio, però ci sono le stagioni in cui non riesci ad esprimere tutto il tuo potenziale. Il potenziale dell'Inter credo che sia ancora in assoluto il migliore del lotto. Poi se ci metti qualche infortunio, qualche disavventura, se ci metti la stagione successiva, se ci metti il complesso, non dico della pancia piena, ma insomma di un certo appagamento dopo quello che l'Inter è riuscita a combinare l'anno scorso, arrivano queste stagioni in cui c'è un'altra squadra che riesce a fare bene e forse leggermente meglio del previsto. Le ricordo però che qualcuno, e in questo caso anch'io personalmente, fin dalla fine d'agosto, da quando si era parlato dell'arrivo di Ibra al Milan, qualcuno aveva sostenuto che il rapporto di forze automaticamente era mutato e poi attraverso mille sviluppi e mille intrecci impossibili da indovinare prima, ma almeno questo dato qualcuno lo aveva anticipato e quindi indovinato. C'è una partita importante è un aggettivo che va abolito, una partita che pesa, che conta stasera a Torino tra Juventus e Chievo, in piccola minima parte anche per il Chievo, perché aritmeticamente non è ancora salvo, anche se in pratica lo è, credo anche abbastanza ampiamente. Conta per la Juventus perché ha la possibilità di tornare a 3 punti dall'Udinese e a 1 da Lazio e Roma, e quindi di giocarsi fino in fondo le sue residue. Non numerosissime, ma insomma le sue residue chance di piazzamento al quarto posto che è tornato dopo un appannamento, un'eclisse dell'Udinese, secondo me con pienissimo merito complessivo, cioè sia stagionale innanzitutto che riferito alla partita di ieri. Sentiamo a questo proposito la disamina, la riflessione di Don Francesco, cioè di Guidolin. La cosa che fa più piacere a me è che questa è la squadra che sta giocando per la Champions, più giovane che abbia mai giocato per questa classifica. Oggi, in generale, oggi eravamo veramente molto giovani, perché al di là di Pinz e di Natale eravamo, guardate un po' le date di nascita dei miei giocatori, e questo dà una soddisfazione enorme a tutti noi. Bisogna vedere intanto come si completa il quadro delle partite, e noi ovviamente speriamo tanto che il Chievo faccia una grande prestazione, un ottimo risultato domani, dai. Questo è evidente, e poi ovviamente toccherà all'Udinese però giocarsela col Chievo a Verona la prossima domenica. Sentirei a questo punto, sì, darei l'appuntamento quotidiano il 9 maggio sportivo nella libera rielaborazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 maggio 1926. All'Arena Civica di Milano, la nazionale italiana batte la Svizzera per 3-2. Ma per la prima volta nella storia un azzurro sbaglia un rigore. È il terzino del Casale Umberto Caligaris, che in seguito nella Juventus formerà un leggendario pacchetto difensivo con il portiere Combi e l'altro terzino Rosetta. Al di là del rigore sbagliato contro la Svizzera, Caligaris rimarrà nella storia azzurra soprattutto per le 59 apparizioni tra il 1922 e il 1934, che gli hanno consentito di rimanere per decenni il primatista di presenza in nazionale. Lo supererà Giacinto Facchetti nel 1971. Combi Rosetta Caligaris era una delle filastrocche dell'anteguerra, e Caligaris sbagliò effettivamente quel rigore, come poi un suo erede nello stesso ruolo di esterno sinistro, ma allora si chiamava ancora terzino sinistro, cioè Cabrini, ne sbagliò uno addirittura in una finale mondiale. Orazio ha chiamato da Pescara, buongiorno. Buongiorno signor Ganzini, complimenti per la trasmissione. Senta, io la chiamo riguardo la partita Roma-Milan di sabato sera. E volevo dire due cose, una su Totti e una sul pubblico di Roma. Prima su Totti, mi è sembrato di vedere per l'ennesima volta che Totti cercare di dare una gomitata a un giocatore del Milan che adesso non ricordo, e questa cosa è passata quasi diciamo in silenzio, perché nessuno lo ha rimarcato, che per il secondo, per la seconda partita consecutiva Totti continua con le gomitate e questa cosa qui, visto che questo periodo si è tanto sannato per i suoi 206 rigori in Serie A. No, rigori, quindi, gol con 57 rigori. Sì, scusi, gol, è poi... stato un lapsus voluto. E poi niente, volevo dire che a fine gara a Ponte Milvio, di fronte all'Olimpico, avevo amici lì allo stadio, è stato accoltellato un tifoso milanista, i video sono su YouTube, sono su tutte, tranne che sui giornali. Cioè, che cosa bisogna fare per squalificare per 10 giornate il campo della Roma? Io sono di Pescara, andavo sempre a vedere le partite della Roma a Roma, non posso portarci mio figlio perché ogni volta succedono accoltellamenti, risse, ma è una cosa scandalosa, è una cosa scandalosa, e mi è sembrata una cosa un po' così, un po' non leggerlo sul Corriere dello Sport, sul Messaggero. C'era un ragazzo, se leva su YouTube, c'è un ragazzo in una pozza di sangue. Mi lasci qua dove sono senza costringermi ad andare su YouTube. Non è la prima volta che c'è un che alla tifoseria, non parliamo di società in questo caso che non c'entra assolutamente nulla, che la tifoseria romanista vengono praticati sconti. Io credo che anche sulla decisione di ammetterli domani sera a Inter Roma di Coppa Italia, dopo domani sera, che è stata presa in effetti tra tanti tormenti e in seconda istanza, ci sia qualche perplessità. Non sarebbe la prima volta. Poi lei adesso ci sta dipingendo un quadro particolarmente fosco e drammatico che, non risultando agli atti, insomma, io sono costretto a prendere con beneficio l'inventario. Ma dato che per l'appunto la recidività è altissima, io non posso escludere che quello che lei sta raccontando, sia pure tutto da verificare, possa essere vero. C'è il Giro d'Italia, sì, c'è anche il Giro d'Italia. Sigla. Voci dal Giro. Una voce dal giro, nel nostro caso, è quella di Pier Augusto Stagi, che lo sta seguendo anche per Radio 24. Buongiorno Pier Augusto. Ciao Gigi. Dunque, che non lo so, sai che tra me e il ciclismo non c'è questo, il ciclismo moderno, non c'è questo di oggi, non c'è questo feeling sopraffino, però cerco di documentarmi quel minimo indispensabile per riuscire a stare al mondo. Credo che dopo il round di ieri tra Petacchi e Cavendish, una tappa come quella di oggi, che è di nuovo pianeggiante con una salitina solo nel finale, potrebbe dar luogo a una rivincita immediata o mi sbaglio? No, non ti sbagli assolutamente, è quello che si aspettano un po' tutti. Una rivincita tra i due grandi contendenti di ieri. Ieri sono volate parole grosse, soprattutto da parte di Ho avuto subito un problema già sin dal primo speciale Giro d'Italia. E adesso vediamo di ripristinare il collegamento con Pier Augusto Stagi. Sto leggendo un messaggio, Raffaele da Pistoia scrive: l'Olimpico del CONI e quindi non può essere squalificato. No, adesso non è che ci sia l'extraterritorialità, a parte il fatto che in questo caso non parliamo dell'Olimpico, stavamo a parlare di Ponte Milvio, è un'altra cosa. Qualcuno mi scrive di aver letto questa notizia altrove. Pier Augusto, scusa, ci mi era caduta la linea. Sì, è caduta la linea. Riparti. Niente, sì, hai detto bene, oggi potrebbe essere l'occasione della grande rivincita tra Petacchi e Cavendish, dopo la volata di ieri, soprattutto sono volate dopo sì, parole tra il britannico dell'Isola di Man e il paccato Alessandro Petacchi. In realtà nessuna scorrettezza c'è stata, perché è stata una volata molto lineare. Ah, ecco, ma questo mi fa piacere, perché io l'ho vista due o tre volte e sentendo alla fine i lamenti di Cavendish, insomma, un pochino mi sono stupito, ecco. E la verità è che Cavendish sicuramente è il corridore più forte del velocismo mondiale e non ci sta a perdere, e gli sono girate parecchio ieri, quindi ieri ha avuto proprio una crisi di nervi da bimbo viziato, con i piedi, e si lamenta al cospetto di un grande velocista che però ha 12 anni più di lui e certo, a fare le figure. In realtà peccato di presunzione, perché pensava di poter semplicemente curare la ruota di Petacchi e poi saltarlo con con agilità e facilità. Vediamo, invece così non è stato. Così non è stato. Vediamo oggi cosa succede, se davvero va in scena la rivincita. Piero Augusto Stagi, grazie per questo collegamento. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui. A Valeria Bernardi in regia, Franco Piantanide in redazione. A domani.